entra la corte, esamina il caserio e gli domanda se si era pentito. 5 minuti m'avessero dato un altro presidente, avrei ammazzato. Lo conoscete voi questo pugnale? Sì, lo conosco, c'ha il manico arrotondo nel cuore di Carnot. L'ho penetrato a fondo. Li conoscete voi, vostri compagni? Sì, li conosco, io son dell'anarchia. Caserio fa il fornaio e non la spia. What the fuck? la droga è morta. La droga è morta. Oh, so, lo so, amico mio, lo so. Conosco a memoria i discorsi che ci hanno martellato il cranio, dalla culla alla scuola e poi dal pulpito. Siate poveri di spirito, siate umili di mente. Rinuncia alla ragione. Spegni quella luce abbagliante dell'intelligenza che ti infiamma e ti consuma, perché più saprai, più sarai destinato a soffrire. Rinuncia ai tuoi sensi. Sii prigioniero della santa fede. Vivi nel tuo stato asinino. Vivere a questo modo è vivere da morti. Qualche giorno il vostro cervello ricomincerà a funzionare. Ed ora permettete che vi presenti lo straordinario uomo gorilla. L'uomo gorilla vuole salutare questo gentile pubblico. Prego! vuole salutare questo gentile pubblico? Prego! Il vostro cervello ricomincerà a funzionare.